334-67-662. Se hai l'impulso, mi scrivi. Se no... Ciao Gigi, dopo 6 anni d'amore sulla cresta dell'onda, mi hai dato il ben servito tradendomi. Il giorno dopo, disperato, ho comprato la tua compilation. E un po' di conforto e una luce di sorriso mi hai ridato. Grazie Gigi. Sappi che non è uno scherzo. Max. Sentire quel pianto è una stretta al cuore.

di Gigi D'Agostino. Danziamo l'amore. Gigi D'Agostino abbraccia armonicamente Nora dall'Ungheria, Jessica di Piamo, Diana. Ciao Gigi, vorrei ringraziarti perché solo con la tua musica la mia mente riesce a stare meglio. Sai, è un brutto periodo. Sta finendo, non per mia volontà, una storia che ho con un ragazzo molto più giovane di me. Poiché giustamente lui si sta guardando intorno. Gigi D'Agostino abbraccia armonicamente le sexy di Imperia. Alberto da Livorno. Suona Gigio.

un sogno di quelli strani che mi donava il mio domani. Oxygen up. M2O. Ciao Gigi, vorremmo dedicare Stay a una persona molto speciale che di nome fa Ale. Oggi compie 22 anni. Bambina inimitabile, sorella indispensabile, essenza stessa della nostra vita. Con l'augurio che il tuo futuro sia sempre così pieno d'amore. Mamma, papà e Dido. D'Agostino. Una grande famiglia danzante. Negozi di musica e in ogni dove. Lento, violento e altre storie. Il doppio CD di Gigi D'Agostino. Me dip on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya. Ora, la musica c'è. Music is the vibe, so open up your eyes. Time is running out. Diggy diggy diggy bong diggy bong. Bum diggy diggy diggy bong diggy bong. I'm a Italian, the Spanish and the Mexican. Yes, God put on the earth all kind of man. Japanese, German and Colombian, Chinese and the Russian and the African, American, French and Canadian, Dutch and the Swedish, Brazilian, so the Syrian, the Indian and Jamaican. got a band and you know that's strong. When you take a look on the television, no gunshot and blood, there's no program. Level vibe, but you know they can't wrong. True. Think about the way that we live. Grazie.